dicembre 1970, Saverio Saltarelli. In piena battaglia per la verità, contro le trame eversive della strategia della tensione, la Milano antifascista e democratica indice una manifestazione per il primo anniversario della strage di Piazza Fontana, il 12 dicembre 1970. Si chiede giustizia per le vittime dell'attentato e per Pinelli e Valpreda, simboli di quella parte di società usata come capro espiatorio, utile a coprire i veri colpevoli. E si denunciano responsabilità e connivenze, visibili già allora. Dopo un po', il corteo degenera in scontri molto duri tra manifestanti e forze dell'ordine. Il reparto Celere spara lacrimogeni ad altezza uomo e uno di questi colpisce Saverio Saltarelli in pieno petto, uccidendolo all'istante. 23 anni, militante del Comitato Studentesco di Agitazione Rivoluzionaria, nei pressi dell'Università Statale c'è una targa che ricorda ancora la sua tragica morte. Un omicidio per cui non è stata emessa alcuna condanna.